più soldi in tasca e troppe cicatrici. E la pelle scura come la tua storia. Io lì malordo insieme a quattro amici. Troppo ubriaco dentro un'auto nuova. L'odore caldo della pelle viva. Appannava i vetri per l'umidità. Io che ero l'ultimo del tuo lavoro. E forse l'ultimo che ti amerà. Tornai da te il giorno dopo pregando di ritrovarti. Provai a comprare il tuo tempo ma solamente per parlarti. Non volevi i miei soldi, mi preoccupavo per te. Con leggerezza raccontavi che tua madre non c'è. Da quella volta come le altre sere. Io ci provavo con te ma non ti offrivo da bere. Rolex non piangere. Se l'anno te arriva parlami ancora di te. Dicono che certe storie non possono esistere. Io che ti nascondevo a tutti come le mie viscere. Io non la giudicavo la tua vita rubata. E ti rispettavo molto più di qualche troia viziata. E forse vero un po' mi fa paura. Siamo un castello senza più le mura. Tu che a 20 anni sembri già matura. Non la prendevi come un'avventura. L'abbiamo fatto davvero, l'abbiamo fatto sincero. Solo coperti dal cielo due mondi in un buco nero. L'abbiamo fatto davvero, l'abbiamo fatto sul serio. Solo coperti dal cielo, forse per questo che tremo. Non ti ho baciata nemmeno. E scusa se non ti credo. Con chi eri stata a letto prima tu? Rolex non piangere. Se l'anno te arriva aspettavi mentre mi chiamavi, io che non ti rispondevo per paura degli scami lì davanti a te. Tu che mi abbracciavi, le tue mani fredde come il ghiaccio mentre ripetevi che mi amavi. Mi dispiace, partirò domani. Tu mi pregavi come un angelo senza le ali. Mentre tremavi, togliermi il cappotto, tieni prendi il mio. Grazie a Dio, questa notte non avrai più freddo, ma avrò freddo io. No!